nodo. Aspetta, Non se mi sento più sento tra nulla. un Boh. po'. Dimmi se mi senti nella cuffia. Nodo, nodo. Dimmi se mi senti tra un po'. Mi sa che non funziona. Dimmi se mi senti nella cuffia. Dimmi. Dimmi se mi senti nella cuffia. Dimmi se mi senti nella cuffia. Dimmi se mi senti nella cuffia. Dimmi se mi senti nella cuffia. Dimmi se mi senti nella cuffia. Ba ba ba ba.